TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il punto sulla sicurezza a Udine nei comuni limitrofi con l'assessore regionale Roberti. Reati in calo nel capoluogo in friulano, ma continua la stretta sulla piccola criminalità. Contro il caporalato nelle campagne friulane con la CGIL e i lavoratori stranieri spesso inconsapevoli dei propri diritti. Dopo la tragedia di Crans-Montanala, stretta sui controlli sulla sicurezza nelle discoteche, la situazione in regione. Grado guarda all'estate, il 19 febbraio una selezione di personale stagionale sempre più difficile da trovare. A Trieste il punto sui lavori in corso lungo Viale Miramare, ripristino delle barriere Frangiflutti e Porto Vecchio. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In prefettura a Udine l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha incontrato gli amministratori di diversi comuni, tra cui Udine, dove i reati sono in calo del 20%. È stato fatto il punto sulla sicurezza, in particolare sulle armi da taglio. Sentiamo. La buona notizia è che i reati sono in calo, in particolare i furti nelle case. I dati parlano del meno 20% nella zona di Udine e della sua cintura. I lavori per la sicurezza però vanno avanti. È uno degli elementi emersi nell'incontro che si è tenuto in prefettura questa mattina con l'assessore regionale alla sicurezza Roberti. Presente i rappresentanti di Udine e 5 comuni limitrofi come Tavagnacco, Campoformido, Pasian di Prato, Pozzuolo e Tricesimo. Un momento per fare il punto della situazione, analizzare la posizione dei comuni e illustrare le risorse messe a disposizione nel settore. Uno degli obiettivi è far diminuire ulteriormente i numeri dei reati, ha spiegato Roberti. Un'intenzione confermata anche dal prefetto, che ha segnalato implementazioni nell'attività di videosorveglianza. Nei prossimi mesi, solo nella città di Udine, arriveranno circa 100 nuove telecamere. Saranno aumentati anche i controlli effettuati con il metal detector, di cui il comune di Udine si è da poco dotato in via autonoma e che saranno rafforzati con gli arrivi annunciati dalla regione. Saranno utilizzati per i controlli, in particolare sui minori che girano con i coltelli. L'invito inoltre è quello di rafforzare anche la sinergia tra le forze di polizia locale dei vari comuni in modo da avere uno strumento più efficiente e con personale più numeroso. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nell'agenda pomeridiana del Consiglio dei Ministri c'è la dichiarazione dello stato di calamità naturale per gli eventi meteo dello scorso novembre, che ha colpito in particolare l'Isontino con la frana a Brazzano di Cormons, nella quale hanno perso la vita 2 persone, e l'alluvione nella zona di Versa, a Romans di Sonzo. Un passaggio sollecitato anche questa mattina da Confagricoltura di Gorizia e Trieste per consentire di intervenire anche finanziariamente nei confronti delle imprese colpite in una zona caratterizzata da vigneti storici. Dopo una prima stima dei danni diretti, aveva sottolineato il presidente Claudio Cressati, riconoscendo il lavoro svolto dalla Protezione Civile regionale e dal suo assessorato, stiamo cercando di comprendere insieme alle imprese quale sarà l'effetto sulle attività per avere tempi certi per poter riprendere i lavori in campagna e in cantina, riaprendo anche le strutture agrituristiche. A seguito dell'emanazione da parte del governo del decreto di calamità naturale, Confagricoltura chiederà alla regione di intervenire prontamente nella sospensione dei mutui, dei debiti fiscali e previdenziali e nel valutare gli interventi a copertura dei danni diretti e indiretti. E adesso parliamo di caporalato per un'attività in corso nelle campagne a cavallo del Tagliamento con la CGIL, che informa i lavoratori stranieri occupati in agricoltura dei diritti loro spettanti, di cui spesso non sono a conoscenza. Sentiamo. Siamo con le Brigate del Lavoro, Diritti in Campo, un'iniziativa della FLAI CGIL, la categoria dell'agricoltura del sindacato, e siamo attorno a San Giorgio della Richimbelda e con loro stiamo controllando qual è la situazione. Sono diversi attivisti della FLAI e CGIL con volantini, generi di conforto che vengono portati ai lavoratori. Abbiamo visto 3 situazioni diverse e lo abbiamo fatto con Dina Sovran, che è la segretaria provinciale proprio della FLAI CGIL. Le chiedo se più o meno ha trovato quello che si aspettava. Beh sì, noi lo facciamo regolarmente, questa attività di girare, di incontrare i lavoratori per spiegare loro i diritti che hanno e capire anche le condizioni di lavoro, per capire dove c'è lavoro nero, lavoro grigio, che è la condizione più diffusa, e sì, mi aspettavo esattamente quello che ho trovato. Il secondo campo in cui siamo stati forse è quello più allarmante in termini di diritti negati, buste paga che non vengono date se non dietro richiesta, oppure per esempio lavoratori, in quel caso indiani, che non conoscono nemmeno il diritto alla malattia. Sì, perché probabilmente vivono nella loro comunità e quindi hanno meno contatti con l'esterno, quindi meno possibilità di sapere quali sono i loro diritti, e questa è l'attività che facciamo appunto per rendere loro noto che hanno diritto alla malattia, che hanno diritto a prendere la disoccupazione, che devono avere una busta paga, che è un obbligo per il datore di lavoro. Ricordiamo che il loro datore di lavoro non è l'imprenditore che possiede il campo. No, è di solito un connazionale che apre una partita IVA, però io ricordo sempre che c'è una responsabilità in solido dei proprietari terrieri. San Giorgio da Lichinvelda, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste Pordenone 4 gradi e 5 decimi, a Gorizia 3 gradi e 5 decimi, a Udine 4 gradi. A Forni di sopra 1 grado, a Tarvisio e Sappada meno 4 gradi, a Tolmezzo 0, a Piancavallo 1 grado e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan 0 gradi, sul Monte Lussari meno 1 grado e 5 decimi, a Grado 5 gradi, a Lignano 4. E ora le previsioni dell'ARPA: cielo sereno poco nuvoloso sul Tarvisiano per possibili nubi basse, sulla costa e sulle zone orientali soffierà ancora bora moderata, anche sostenuta a Trieste. E a questo proposito il Comune di Trieste informa che a seguito del miglioramento delle condizioni meteo da domani, mercoledì 21 gennaio, tutti i giardini pubblici recintati saranno riaperti. Con l'avvio del nuovo anno, in seguito alla fusione per incorporazione tra CAFC S.p.A. e Idrogea S.p.A., 154 comuni delle province di Udine e Pordenone su 215 totali del Friuli Venezia Giulia vedono il servizio idrico gestito da CAFC. L'operazione, durata quasi 2 anni, ha riguardato oltre 620.000 abitanti serviti. Si tratta, ha detto il presidente dell'AUSIR Andrea Delle Vedove, di un importante atto condiviso dal territorio e dai suoi principali attori, che va nella direzione della semplificazione della gestione, dell'interconnessione tra strutture e di una maggiore efficacia progettuale e di investimento. In regione, ha detto Delle Vedove, ci sono altri gestori in house che potrebbero seguire il medesimo percorso virtuoso, con l'obiettivo di garantire qualità del servizio e controllo dei prezzi a beneficio della comunità. Friuli annuncia il proprio ingresso nel capitale di Queen, gruppo italiano attivo nella consulenza strategica ed esecutiva e nelle soluzioni tecnologiche per l'industria. L'operazione sostiene il piano di crescita di medio-lungo periodo del gruppo, con consolidamento industriale e rafforzamento competitivo sul mercato italiano ed estero. Il gruppo Queen, tra i principali player in Italia nel settore, conta oggi circa 140 tra dipendenti e collaboratori, 4 sedi in Italia, a Udine, Milano, Cesena e Firenze, e un fatturato complessivo di 17 milioni di euro. L'ingresso di Friuli nel capitale di Queen si inserisce nella nostra missione di sostenere realtà imprenditoriali regionali con solidi fondamentali e chiari progetti di crescita, ha detto la presidente di Friuli, Federica Seganti. Dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, la presidente del Consiglio Meloni aveva proposto di vietare le candele pirotecniche che hanno acceso il rogo. Per ora sono ancora permesse, ma diversi locali hanno deciso di eliminarle, come Tommaso Centazzo racconta, titolare della discoteca IM di Staranzano. Pochi giorni dopo la tragedia di Crans-Montana, il profilo social della discoteca IM di Staranzano ha annunciato la messa al bando, decisa dal titolare, delle candele pirotecniche. Abbiamo subito deciso di eliminare queste famose famigerate fusette e di togliere tutti anche gli effetti pirotecnici, seppure a norma, ma di togliere anche quelli per dare un segnale. Questo, anche se a provocare il disastro del locale svizzero più che le candele, è stato l'ambiente in cui sono state accese. Innanzitutto non era discoteca e di conseguenza non aveva tutte, non rispettava tutte le normative a cui noi siamo sottoposti, cioè non aveva i materiali ignifughi ed è per questo che la fusetta ha fatto sì che si innescasse l'incendio, appunto perché c'erano dei pannelli che non dovevano essere messi in quel punto. Sicuramente, appunto, essendo le normative molto stringenti, i costi per avere tutto in regola sono molto elevati. Questo può essere uno dei motivi per la quale molti locali esistenti anni fa hanno dovuto chiudere perché non sono riusciti magari ad adattarsi appunto alle nuove normative o a quelle già esistenti. Di discoteche in regione ne sono rimaste meno di una decina e molte hanno preso con il passare dei giorni la stessa decisione, anche se le candele pirotecniche sembrerebbero ancora legali. La Premier Meloni, all'indomani della strage di Crans-Montana, aveva lanciato l'idea di vietarle, ma ad oggi non risultano provvedimenti in questo senso. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. E abbiamo anche raccolto le voci di alcuni giovani frequentatori delle discoteche. Ascoltiamo. Diciamo che sono sempre stata attenta in realtà, quindi semplicemente cerco di non bere troppo, di essere più presente in quello che faccio, però non è cambiato più di tanto, ecco. Guardi se ci sono le uscite di sicurezza. Sì, certo. È la prima cosa, anzi, da fare, soprattutto in un locale. Cerco sempre di capire come è fatto il luogo, se ci sono delle porte di sicurezza dopo appunto quello che è accaduto, perché comunque mi ha spaventato. Quindi tengo più attenzione, faccio più attenzione, diciamo. L'incidente più grave degli ultimi anni legato alla sicurezza di un locale notturno in Italia resta la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. Dopo che una sostanza urticante, probabilmente uno spray, venne spruzzata tra la folla, molte persone tentarono di fuggire. Il panico e la calca causarono 6 vittime. Incontriamo una ragazza che frequentava quel locale. Io prima di andare in discoteca guardo la planimetria, se ci sono uscite di sicurezza, se posso essere in pericolo o non posso essere in pericolo. Da quel momento sto tranquilla, se no no no. Se non mi sento tranquilla all'interno, esco. Gestori e pubblico, ma anche chi anima le serate dalla console con uno sguardo alla musica e uno a ciò che accade intorno, i DJ. Da loro arriva un appello. Non è successo in una discoteca, è successo in un bar che faceva ciò che non è permesso fare nei bar, fare discoteca in un bar. Quando uno fa un'attività che non è l'attività che dovrebbe fare alla fin fine, questo è il problema. E la maggior parte delle discoteche in zona fanno serate più 18. Io personalmente considero che la notte, al di là di quello che è successo a Crans-Montana, la notte ha pericoli e la notte perciò deve essere per maggiorenni. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ci sono anche persone residenti in regione. Fra le 1200 vittime delle truffe agli anziani scoperte in seguito ad una maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova, con 10 indagati, 5 misure cautelari e sequestri per 2 milioni e mezzo di euro. Al centro delle indagini, una società attiva nel settore delle vendite porta a porta, con sede legale nel veneziano e operativa nell'hinterland padovano. Nel dettaglio, le società, grazie ad una rete di agenti di vendita, andavano di casa in casa in abitazioni di anziani, casalinghe, pensionati e persone fragili e spiegavano che in virtù di un pregresso contratto di acquisto stipulato anni prima, queste persone erano obbligate ad acquistare costosi articoli casalinghi con l'accensione di finanziamenti. 2 automobilisti denunciati all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza per un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti per la sfera penale e altri 2 sanzionati amministrativamente. Questo è il bilancio dei controlli sulla circolazione stradale svolti nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Aurisina. Per tutti e 4 i conducenti è scattato il ritiro della patente di guida e l'affidamento dell'autovettura a terze persone idonee alla guida. Complessivamente, fra sabato e domenica, sono stati controllati 164 veicoli e 392 persone. E un cittadino georgiano di 31 anni è stato arrestato dalla polizia di Udine dopo essere stato rintracciato nel parcheggio di un supermercato cittadino, nonostante il decreto di espulsione dal territorio nazionale ricevuto nel novembre 2024 con divieto di reingresso per 5 anni. L'uomo ha esibito un passaporto georgiano di nuova emissione. È stato così accertato che aveva inizialmente lasciato l'Italia in ottemperanza al provvedimento provvedimento, ma aveva poi ottenuto il rilascio di un nuovo documento valido per l'espatrio con differenti generalità. L'uomo con precedenti per reati predatori è stato trattenuto in attesa dell'udienza di convalida della misura in sede di giudizio direttissimo e poi preso in carico dall'ufficio immigrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza finalizzati all'espulsione. E in Consiglio regionale sono in corso questa mattina le elezioni per il rinnovo di metà mandato delle cariche nelle commissioni. Sentiamo come sta andando. Nel segno della continuità e della compattezza della maggioranza, le elezioni dei presidenti e vicepresidenti delle commissioni permanenti regionali in corso nell'aula del Consiglio di Piazza Oberdan. Tutte confermate finora le cariche, con l'eccezione di un subentro del leghista Giuseppe Gersinic sul suo collega di partito Alberto Budai, alla guida della quarta commissione, quella che ha il mandato di lavori pubblici, pianificazione territoriale, infrastrutture e ambiente, staffetta decisa già ad inizio legislatura. Oltre a Gersinic, confermati finora il presidente della prima commissione bilancio, Marcus Maurmeyer di Fratelli d'Italia, della seconda, settori produttivi e lavoro, Stefano Ballock, Fratelli d'Italia, e della terza, sanità, Carlo Bolzonello, Federica presidente. Le votazioni per le ultime due commissioni sono in corso proprio in questi minuti, ma non sono previsti avvicendamenti. Al termine i consiglieri voteranno per le nomine del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Grado guarda già all'estate con due grandi realtà turistiche del territorio che lanciano il primo recruiting day insieme alla regione. Sarà il 19 febbraio, poco fa è terminata la conferenza stampa dalla quale è emersa la difficoltà di trovare lavoratori non solamente perché mancano le competenze ma anche a causa del calo demografico. Sono giornate fredde, difficile pensare all'estate, ma il settore turistico gioca sempre d'anticipo. In sala Predonzani, nel Palazzo della Regione, l'assessorato al lavoro presenta il prossimo Recruiting Day, che si svolgerà il 19 febbraio nella sala del Consiglio del Comune di Grado. Una intera giornata di colloqui. Le candidature vanno presentate entro il 10 febbraio. Noi siamo con Sabrina Marchiol, della posizione organizzativa Servizi Imprese della Regione. Sabrina, le chiedo di fatto che tipo di posizione state aprendo per l'estate prossima? Sì, allora abbiamo 68 posti di lavoro e ovviamente abbiamo, i due sono le aziende che ricercano personale. Si tratta di un'iniziativa a supporto del settore turistico, per cui ovviamente c'è una varietà di posizioni e di mansioni da ricoprire. Si va ovviamente ci sono anche delle posizioni in ambito impiegatizio, amministrazione, piuttosto che addetto all'accoglienza, però ci sono ovviamente anche le posizioni e le mansioni più caratteristiche del settore turistico, ossia ambito cucina, ristorazione in senso più ampio, addetti sala bar e tutte le figure di supporto all'attività ovviamente stagionale. Voi siete partiti col turbo in pochi giorni, di fatto da quando è iniziato quest'anno avete già fatto 5 attività di recruiting, quindi attività legate all'approvvigionamento di lavoratori. C'è difficoltà a trovare lavoratori, lo notate? Sì, beh, ovviamente c'è difficoltà, ma noi lavoriamo appunto per supportare le aziende nella ricerca delle persone. Abbiamo diversi strumenti ovviamente, perché abbiamo i recruiting day che ovviamente danno l'opportunità e offrono dei posti di lavoro per persone specifiche, ma ci sono anche altre iniziative proprio organizzate dalla regione per supportare e aiutare a costruire le competenze. In questo caso appunto ci sono i corsi coprogettati. I corsi coprogettati sono dei corsi nei quali l'azienda decide che professionalità e come formare le persone da inserire poi all'interno dell'azienda, con un percorso ad hoc personalizzato e stanno dando ovviamente risultati importanti. Trieste, Nuovi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Numerosi i lavori che stanno interessando l'area lato costa di Viale Miramare a Trieste. Si tratta di opere di ripristino delle barriere frangiflutti e di una nuova porzione del Porto Vecchio riqualificato. Ha preso ormai corpo la città della sportiva outdoor in Porto Vecchio a Trieste, uno dei tanti progetti destinati a cambiare il volto dell'ingresso in città lungo Viale Miramare. Due campi da tennis, uno utilizzabile sia per la pallacanestro che per la pallavolo, uno skate park e due arene da beach volley con rampe d'accesso, magazzini, tribune e spogliatoi per atleti, oltre a un tratto di pista ciclabile. Un intervento costato 4.700.000 euro, finanziato con fondi PNRR. che restituisce alla città buona parte del terrapieno di Barcola da lungo tempo abbandonato. I lavori dovrebbero concludersi nelle prossime settimane, anche se mancherà ancora l'arredo arboreo floreale che sarà piantumato in un secondo momento. Obiettivo estate 2026, quando tutto dovrà essere pronto. Poco oltre, proseguendo per Viale Miramare, uscendo dalla città fino al porticciolo Cedas, dove si trovano i topolini amatissimi dai triestini in estate, è la regione, tramite l'assessorato all'ambiente, a essere in capo ai lavori di ripristino e potenziamento delle protezioni della costa. Quasi 20.000 tonnellate di massi apposti a poca distanza dal lungomare, sommersi dalle acque del Golfo. Un sistema difensivo, progettato originariamente insieme al resto del lungomare, poi deteriorandosi nel corso del tempo, che aiuterà a proteggere meglio il lungomare da mareggiate violente come quella che causò gravi danni nel novembre 2023. I lavori, del valore di 2 milioni di euro, riguardano anche i settori di Barcola dedicati alle difese radenti, ai trampolini, al molo dei canottieri e alla protezione sopraflutto. Anche in questo caso i lavori si concluderanno per la prossima estate. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il 2025 è stato un anno eccezionale per il terminal FHP di Monfalcone, società controllata dall'omonimo gruppo. Nel corso dell'anno il terminal ha registrato un aumento del 13% nel volume di merci rispetto all'anno precedente, raggiungendo un nuovo record con oltre 3 milioni di tonnellate movimentate e un'intermodalità pari a 1628 treni che hanno trasportato oltre 1.300.000 tonnellate di merce e oltre 85.000 tonnellate movimentate via chiatta, risultati che portano miglioramenti generali nella sostenibilità ambientale del porto di Monfalcone grazie alla riduzione dell'impatto stradale via gomma sia in termini di emissioni sia di sicurezza stradale. Passiamo allo sport con lo sci alpino. Ancora una buona prestazione di Lara Della Mea in slalom gigante e decima dopo la prima manche di Plan de Corones, la gara che ha visto il rientro di Federica Brignone dopo il grave infortunio della scorsa primavera. La tervisiana è distanziata di 1,89 secondi dalla svedese Hector, leader provvisoria. Della Mea ha perso terreno nella seconda metà della sua prova. Migliore delle italiane proprio la Brignone, settima. La seconda manche partirà alle 13.30. Alessandro Agosto, nuotatore paralimpico della Triestina Nuoto, è stato protagonista con due record italiani nella seconda giornata della seconda prova assoluta in vasca da 25 metri al Centro Federale Bruno Bianchi di Trieste. Classe 2003, già maglia azzurra nella scorsa stagione ai mondiali, ha prima abbattuto il muro dei 55 secondi nella gara regina dei 100 stile libero, fermando le lancette a 54 secondi e 66 centesimi, poi riscrivendo il primato italiano anche sui 200 stile libero toccando la piastra dopo 1:59.76. Un obiettivo questo che il nuotatore inseguiva da tempo. Si tratta dei migliori risultati nazionali FISDIR, Federazione Italiana Sport Paralimpico degli Intellettivo Relazionali in vasca corta nella classe S14. Il tecnico Simone Capuano ha auspicato che l'atleta già la prossima estate possa dire la sua in campo internazionale. Bene anche Giovanni Magnà, 100 stile libero in 51.58, con cui conquista la qualificazione ai prossimi campionati italiani juniores in vasca corta. Basket, la Pallacanestro Trieste torna in campo in Basketball Champions League dopo aver conquistato l'accesso alla Round of 16. L'esordio nel gruppo L, girone del quale fanno parte due squadre spagnole, Tenerife, Gran Canaria e la ceca Nymburk, porta i biancorossi di coach Israel Gonzalez sul parquet della Gran Canaria Arena alle 21. Una rettifica adesso: la parrocchia della Beata Vergine Addolorata di Valmaura a Trieste organizza per domani sera e non per questa sera come erroneamente indicato nel giornale radio di questa mattina l'incontro con padre Pierluigi Maccalli dal titolo Riconciliazione e missione in Africa. Padre Maccalli, missionario in un piccolo villaggio in Niger, fu sequestrato dai terroristi islamici per 2 anni, dal 2018 al 2020. Oggi missionario del della Società Missioni Africane, racconterà la sua esperienza nella parrocchia di Piazza Valmaura 7 alle 18:30 appunto di domani. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. Regia Paolo Cassano e Viola Romanese, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.